la rassegna è incentrata sul femminile per parlare della lenta rivoluzione in atto che passo dopo passo porta la donna non solo a vivere la sua maternità chiaramente a casa, ma anche all'esterno, in contatto con il proprio lavoro, ma anche con una dimensione artistica e quindi fautrice di idee, di opere, di spettacoli e di lavori, eccetera, eccetera. Teatro e comunità, perché l'idea di legami è quella di, come dire, ribaltare il meccanismo teatrale per cui non è il popolo, le persone che vanno a teatro, ma è il teatro che va alle persone nei luoghi che di solito frequentano. Infatti la rassegna ci sarà il 28 e il 29 settembre, che è un giovedì e un venerdì, è un pre-weekend, al Giardino Lavinia Fontana, che è in centro. Quindi in una situazione site specific, dove di solito quel giardino viene vissuto dalle mamme con i bimbi perché c'è il parco giochi o comunque da persone che vanno lì a passare il loro tempo libero, ci sarà questa rassegna teatrale. Ecco, chi saranno le ospiti che poi insomma si esibiranno, terranno anche i loro laboratori, perché ecco è una rassegna ricca anche di modalità differenti, no, con cui puoi entrare a contatto. Sì, ci sono degli spettacoli, il 28 c'è uno spettacolo che si chiama Ricordamelo, della compagnia Legami, con marionetta corpo umano di un'anziana signora che si chiama Dora, per raccontare appunto di che cosa voleva dire essere una adolescente femmina negli anni 50 e quindi parlare di quel momento in cui c'era il boom economico, in cui tutto era possibile, no? E quindi fare un flashback nel passato. E poi raccontare invece di oggi, di qualcosa che mi è molto vicino, perché io ho avuto un figlio a maggio 2022, quindi mi sono chiaramente riscoperta come madre, ma con tutto un pregresso di artista che insomma mi ha portato anche a vivere questa esperienza con una certa profondità. E quindi c'è uno spettacolo che si chiama Jukebox Femminile e vuole portare in scena la vita di due donne che la vedono in maniera diversa. Io con la mia esperienza e un'altra mia collega che invece non vuole avere figli, e quindi come dire in maniera molto obiettiva la scelta, no, di una donna nel contemporaneo a cosa porta, perché poi effettivamente i giudizi non mancano sia nei confronti di una che decide di avere un figlio a 41 anni, sia nell'altra che a 30 anni decide di non averne. Certo, sia in un caso che nell'altro comunque, esatto, siamo giudicate, ecco. Sì, purtroppo. E poi invece il giorno dopo c'è un laboratorio dedicato alle madri, e quindi c'è un lavoro di teatro fisico sulla riscoperta del corpo, su riconnettersi un po' alla natura selvaggia, no? Un po' ispirato al libro Donne che corrono coi lupi, perché ci piaceva proprio ritornare a quella dimensione, no? Dove madre terra, dove è qualcosa di molto viscerale, che quindi una visione molto, secondo me, positiva, no? Bella al Nerci Class vederci così. Ed è un laboratorio dedicato non solo alle madri ma anche ai bambini, e quindi per poter esplorare anche un modo di stare insieme extra quotidiano. E dopo a seguire c'è uno spettacolo che si chiama Loco, che parla del sentirsi a casa attraverso il linguaggio della danza contemporanea, che è quello un po' il tema degli affetti, no? Quindi è una rassegna che parla di cura, di affetti, di ricordi, di tutto ciò che è appunto accoglienza, come la maternità, no? Che per emblema è questo. Ecco, tra l'altro gli eventi sono ingresso gratuito, ecco. Sì. Assolutamente, è meglio prenotare per una questione di organizzazione, così capiamo quante persone verranno, mandando una mail a compagnialegami@gmail.com. Ottimo, bene Maria, grazie per avercene parlato. Ricordo ancora una volta questo giovedì e venerdì al Giardino, ricordami il nome? Lavinia Fontana. E niente, grazie ancora Maria Grazia, e insomma buona fortuna per la rassegna. Grazie, una buona giornata.